Non li avevo mica trovati i gangli cerebrospinali, disse mio padre. Mia mamma diceva: hai sporcato dei vestiti buoni per niente. Forse non li avevi cercati bene, Beppino, disse mia madre. Forse li dovevi cercare ancora. Ma che, Sempia, che non sei altro? Non era mica una cosa semplice. Sei subito pronta a buttarmi giù. Ma guarda che asina che sei. Io quando ero nel mio collegio, disse mia madre, mi facevano anche a me studiare le balene. Insegnavano bene la storia naturale, a me mi piaceva molto. Ci portavano però nel mio collegio un po' troppo a messa. Bisognava sempre confessarsi. Noi certe volte non sapevamo che peccato confessare, allora dicevamo: ho rubato la neve. Ho rubato la neve. Com'era bello il mio collegio, come mi sono divertita. Tutte le domeniche, disse, andavo dal Barbizon. Le sorelle del Barbizon le chiamavano le Beate perché erano molto bigotte. Il Barbizon, il suo vero nome era Perego. I suoi amici gli avevano fatto questa bella poesia: bello è veder di sera e di mattina del Perego la ca e la cantina. Oh, non cominciamo adesso col Barbizon, disse mio padre. Quante volte l'ho sentita contare questa storia! Buongiorno, sono Andrea Gibellini e volevo fare alcune considerazioni che riguardavano lo stile del romanzo di Lessico Familiare e di una frase che la Ginsburg scrive che riguarda lo stile ma anche l'eticità delle parole. Uno stile e un'eticità delle parole dopo la bufera del fascismo, perché questo è un romanzo familiare ma anche molto impregnato di storia. Se negli anni 30 Montale poteva dire in piena epoca fascista la celebre frase, il celebre verso finale di ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, la Ginsburg scrive queste parole al riguardo di cosa si può scrivere Dopo questa epoca terribile nella quale anche poi la stessa Natalia aveva perso il marito Leone Ginsburg. E scrive la Ginsburg: era necessario tornare a scegliere le parole, a scrutarle per sentire se erano false o vere, se avevano o no vere radici in noi o se avevano soltanto le effimere radici della comune illusione. Ecco, credo che Lessico Familiare cerchi le frasi vere. Frasi vere è una bellissima idea di Ingeborg Bachmann quando parla, ad esempio, della poesia. Dice: in cerca di frasi vere, si intitola proprio un libro a lei dedicato con i suoi scritti. E in qualche modo anche la Ginsburg non cerca soltanto il senso del racconto, un senso della storia. Cerca questo, lo cerca innanzitutto attraverso appunto delle parole vere, delle parole che siano cariche di affettività, ma anche che questa affettività sia acuta, spigolosa, che possa in qualche modo e sempre e ricordare per tutta la vita quello che è stato del passato, che non sia in sostanza, credo che questo in qualche modo la Ginsburg si aspettava anche dai suoi numerosi lettori, si aspettava che la parola della Ginsburg non fosse dimenticata, un po' come forse credo che potesse pensare anche con Primo Levi con Se questo è un uomo, ma che fosse una parola che potesse essere trasportata verso il futuro e potesse essere per chi l'ascoltava una sorta di indice di riflessione, ecco, un qualcosa che potesse appartenere anche agli altri. E perché questa parola possa appartenere anche agli altri, la Ginsburg ci insegna che deve essere condivisa, deve essere un qualcosa che abbia a che fare con una verità, è una verità forte. E la Ginsburg ci racconta la verità della storia più grande che entra dentro la storia privata, la storia di una famiglia, e come questa famiglia, nonostante la brutalità della storia stessa, che draga e porta via ogni cosa, nonostante le incertezze anche della vita quotidiana, sapesse comunque sempre, e questo è un grande dono che ci fa la Ginsburg, attraverso il sorriso di lei stessa, ma anche attraverso il sorriso di sua mamma, attraverso il sorriso furibondo ma bonario del padre, ecco, a vedere anche la vita nella sua giusta relatività, nel suo giusto modo di riuscire in qualche modo a sopravvivere, energicamente a sopravvivere a cose che in qualche modo la stavano affossando, perché c'era una storia più grande, che era appunto il fascismo che stava distruggendo ogni qualità esistenziale. E quindi credo che Lessico familiare ci lasci proprio questo, un significato della memoria detta con parole vere. Anna Bonaiuto ha letto Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Postfazione di Andrea Gibellini. Regia di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini. A cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it